le 3.39 ed attendo il 40 barrato di notte, farlocchi. Tu immergi biscotti in tazzine di coffee, immagino labbra bagnate, giocose, perfette, di stile balocchi, fin sopra le due tette tue io sarei più felice. Si dice nel giro che chi tace è soltanto vernice, ma bianca, guarda, anzi ascolta bene la mia voce. È per te che mi perdo nottate a pensare alle frasi da dir sottovoce, ma invece mi piace quel suono di te che incornicia le ore con te, poi le rende emozioni, trasforma i sorrisi in miracoli rari, e tu non hai pari. I dispari appaiono in fondo alla sala, ed appaiono buoni, ma chiedono carte e cartine, ma senza tom tom non si giunge alla fine, non si giunge alla destinazione. Idee con le azioni, prime colazioni, il passo prima di una partenza, è la tua pelle che mi manca, è la tua pelle che si burla di un attimo, in attimi ottimi, un attimo che pensa al tuo pensiero che mi pensa, e sono battiti vitali. Alvaro il tuo corpo che inizia la danza, si plasma la tua movenza, il cielo in una stanza. Quando tu sei qui con me siamo lieti, le mura diventano musica che cantano in piedi. Quando tu sei qui con me questa stanza non ha più pareti, ma angoli, angoli infiniti. I tuoi miti sono mete, i tuoi desideri sei tu che mi seduci. Le tue dita che mi danno gesti di mimi muti, noi nudi che siamo gemelli. E il passato bastardo che è simile, immobile, scruta il presente. Ma noi con le mani nei piedi, noi con le mani nei piedi che avremo il coraggio per dirgli: rimani in castigo per mesi, oramai siamo illesi. Rimani in castigo per mesi. Oramai siamo illesi.